ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. 12ª puntata. Attraversiamo una palude gelata. Vi sono erbe alte e dure che potrebbero nascondere qualche sorpresa e procediamo cauti. La mia compagnia è in testa. Le pattuglie di cenci e pendoli braccano il terreno davanti a noi. Subito dopo vengo io. Dietro vi sono le altre compagnie del Vestone. Gli altri due battaglioni del Sesto, le batterie del Secondo da montagna, gli altri battaglioni del Quinto e poi l'interminabile fila degli sbandati. Italiani, ungheresi, tedeschi, feriti, congelati, affamati, disarmati. Sulla sommità di una mugila è apparso un carro russo e spara qualche colpo sulla colonna, ma un 75-13 della 19 è pronto a rispondere e il carro russo scompare. Il maggiore Bracchi, il nostro capitano, un ufficiale tedesco, un maggiore di artiglieria, sono dietro a noi e di tanto in tanto ci gridano degli ordini. Ci avviciniamo a un gruppo di costruzioni, magazzini per il grano forse. Da uno di questi vediamo uscire gente che agita le braccia, grida verso di noi e ci viene incontro. «Sono dei nostri! Sono dei nostri!» gridiamo. Pensiamo a mille cose, ma la più forte è: sono italiani, soldati italiani che ci vengono incontro dall'altra parte. «Siamo fuori dalla sacca!» pensiamo. Diventiamo tutti allegri. Viene il desiderio di fare capriole sulla neve. Antonelli grida e canta. Camminiamo più lesti e leggeri verso di loro. Sembra di volare, di non arrivare mai. Ma l'illusione dura solo pochi minuti. Quando siamo vicini ci accorgiamo che sono senza armi. Vorrebbero abbracciarci, sono qualche centinaio. Nella confusione apprendiamo, in poche parole, che sono stati prigionieri dei russi, che dalle fessure delle baracche dove erano custoditi hanno visto il combattimento volgere in nostro favore e che le sentinelle russe sono scappate al nostro avvicinarsi. Noi vorremmo sapere dell'altro, ma Bracchi taglia corto e li manda in coda alla colonna. Cala la sera e camminiamo sempre nella steppa. Vediamo dei soldati italiani stesi rigidi nella neve uno di fianco all'altro. Dal colore delle fiamme e dal numero noto che sono del genio alpino della divisione cuneense. La pista è dura, lucida di ghiaccio levigato dal vento. Porto in spalla l'arma della Breda 37 e scivolo e cado. Mi rialzo, cammino e di nuovo cado. Quante volte così? La compagnia ha serrato le file e si cammina in fretta. Il maggiore Bracchi mi cammina al fianco, mi guarda e tace. È notte, si cammina ancora, cado. Poi rimango indietro e Bracchi mi dice: «Forza, ci arriveremo!» Ma quanto è lontano ancora. Ora è qui anche il nostro generale. Ci sorpassa su un automezzo tedesco, si ferma, ci guarda: bravi ragazzi», ci dice. Ci guardava passare uno per uno dall'automezzo. Dopo ci raggiunge ancora, cammina un poco con noi e dice forte: «Ancora poche ore e poi saremo fuori, a pochi chilometri c'è un caposaldo tedesco». Un mio compagno finalmente mi dà il cambio a portare l'arma. Si cambia direzione, gli ufficiali si sono fatti seri, tra loro dicono che una colonna di russi si è infiltrata fra noi e il caposaldo tedesco. Quando ci fermiamo a pernottare in un villaggio è notte, non ne possiamo più, siamo disperati di fatica, di freddo, di fame, di sonno. Le scarpe le abbiamo di vetro sulla neve. Ci sentiamo nelle tasche le lettere che non possiamo spedire. «Avanti, Scet! Forza, Scet!» Polenta e latte in una cucina al caldo. «Arriveremo, baita! Avanti, forza!» E si cade per terra. Ma ora c'è un villaggio a cui siamo arrivati. I panzer tedeschi si fermano alle prime isbe. Noi andiamo alle ultime. Le isbe sono vuote e il villaggio è deserto. Le porte sono chiuse a chiave. Dobbiamo scardinarle per entrare. Il forno dell'isba dove siamo entrati è ancora caldo, ma non c'è nessuno. È un'isba pulita e tiepida. Davanti alle icone arde ancora il lumino e vi sono tende alle finestre, drappi e fotografie alle pareti. Chi porta legna e chi paglia. Nella stalla vicina vi sono due pecore e un maiale. Le pecore le diamo agli altri plotoni e noi ci ammazziamo il maiale. A comandare il mio plotone mandano un ufficiale che ha la fama di iettatore. Entra nell'isba, si pianta in mezzo con le mani in tasca e comanda. Vuole che la paglia sia ben sparpagliata, le coperte tese e allineate, il pavimento pulito, che il maiale venga cucinato così e così. Ha due occhi cattivi e duri ed è alto e rigido. Comanda. Ma i miei compagni hanno più buon senso di lui. Non rispondono nulla, non dicono nulla. Continuano a fare come hanno fatto sempre, da quando mi trovo con loro. Domattina, penso, vado dal capitano e se non basta dal maggiore e dal colonnello. Non voglio questo ufficiale nel mio plotone. Sono più che sufficiente io. Se no mi mandino uno come Moscioni o Cenci. Vengo a sapere che in un'isba vicina c'è Rino e vado a chiamarlo. Ho voglia di averlo con me stanotte. Poi arrostisco sulla brace un pezzo di maiale e seduti sulla paglia mangiamo insieme. Infine ci sdraiamo, coprendoci con le coperte e i pastrani. Il tepore di un corpo riscalda l'altro, l'alito di uno riscalda il viso dell'altro. Ogni tanto socchiudiamo gli occhi e ci guardiamo. Quanti ricordi fanno groppo alla gola. Vorrei parlare di casa nostra, dei nostri cari, delle nostre ragazze, dei nostri monti, degli amici. Ti ricordi, Rino, quella volta che l'insegnante di francese ti disse: una mela guasta può far marcire una mela sana, ma una mela sana non può sanare una mela guasta? E la mela guasta ero io, e la sana tu. Ricordi, Rino? E prendevo sempre 4 e 3. Tante volte, tante cose vorrei dirti, e non sono capace di augurarti la buonanotte. I nostri compagni già dormono, e noi ancora no. Fuori c'è la steppa desolata e le stelle che splendono di sopra quest'isba sono le stesse che splendono di sopra le nostre case. Ci addormentiamo. Al mattino vado dal capitano a chiarire la situazione del mio plotone. Il capitano ne parla al maggiore. L'ufficiale nuovo viene mandato via e non lo vedrò più. Sarà andato a far l'eroe fra gli sbandati. Così, da ora, rimarrò solo a comandare il plotone. Quei 20 uomini che sono rimasti sono contenti. E io pure. Antonelli più di tutti. Il sole nel cielo limpido ci riscalda le membra indolenzite e si continua a camminare. Che giorno è oggi? E dove siamo? Non esistono né date né nomi, solo noi che si cammina. Passando per un villaggio vediamo dei cadaveri davanti agli usci delle isbe. Sono donne e ragazzi, forse sorpresi così nel sonno perché sono in camicia. Le gambe e le braccia nude sono più bianche della neve, sembrano gigli su un altare. Una donna è nuda sulla neve, più bianca della neve, e vicino la neve è rossa. Non voglio guardare, ma loro ci sono anche se io non guardo. Una giovane è con le braccia aperte e ha sul viso un lino bianco. Ma perché questo? Chi è stato? E si continua a camminare. Passiamo per una valletta stretta e deserta. Cammino con angoscia. Vorrei che se ne fosse già fuori. Mi sembra di soffocare. Guardo da tutte le parti con apprensione, ascolto e trattengo il fiato. Vorrei correre. Mi aspetto di veder comparire da un momento all'altro le torrette dei carri armati e di sentire le raffiche delle mitragliatrici. Ma passiamo. Ho fame. Quando ho mangiato l'ultima volta? Non ricordo. La colonna passa tra due villaggi distanti fra loro pochi chilometri. Lì ci sarà certamente qualcosa da mangiare. Dalla colonna si staccano dei gruppetti che vanno verso i villaggi in cerca di cibo. Gli ufficiali gridano, dicono che potrebbero esservi dei partigiani o delle pattuglie russe. Soldati del mio plotone vanno anch'essi in cerca di cibo. Durante una breve sosta ci fermiamo a bere ad un pozzo. E poi vado in un'isba, che mi sembra la più vicina, ma è una delle più vistose ed è già stata visitata da molti. Non vi trovo che un pugno di fettine di mele essiccate che i russi usano per fare i decotti. Si cammina e viene ancora notte. È freddo, più freddo di sempre, forse 40 gradi. Il fiato si gela sulla barba e sui baffi. Con la coperta tirata sulla testa si cammina in silenzio. Ci si ferma, non c'è niente. Non alberi, non case, neve e stelle e noi. Mi butto sulla neve. E sembra che non ci sia neanche la neve. Chiudo gli occhi sul niente. Forse sarà così la morte. O forse dormo. Sono in una nuvola bianca. Ma chi mi chiama? Chi mi dà questi scossoni? Lasciatemi stare. Rigoni! Rigoni! Rigoni! In piedi, la colonna è partita. Svegliati, Rigoni! È il tenente Moscioni che mi chiama quasi con angoscia. E aprendo gli occhi lo vedo curvo su di me. Mi dà un paio di scossoni e vedo bene il suo viso ora e i due occhi scuri che mi fissano, la barba dura e lucente di brina, la coperta sopra la testa. Rigoni, prendi, dice, e mi dà due piccole pastiglie. Inghiotti, fatti forza, avanti. Mi alzo, cammino con lui e a poco raggiungiamo la compagnia e capisco tutto. Ma quanti che si sono buttati sulla neve non si alzeranno più? Cenci e Moscioni mi fanno salire su un cavallo, ma è peggio che camminare. Temo di congelarmi, ridiscendo e cammino. Cenci mi dà una sigaretta e fumiamo. Di Rigoni, che desidereresti adesso? Sorridono anche loro. Lo sanno la risposta, perché altre volte l'ho detta camminando nella notte. Entrare in una casa come le nostre. Spogliarmi nudo, senza scarpe, senza giberne, senza coperte sulla testa. Fare un bagno. E poi mettermi una camicia di lino. Bere una tazza di caffè latte. E poi buttarmi in un letto, ma un letto vero con materassi e lenzuola. È grande il letto e la stanza tiepida con un fuoco vivo. E dormire. Dormire. Dormire ancora. Svegliarmi poi e sentire il suono delle campane, trovare una tavola imbandita, vino, pasta asciutta, frutta, uva, ciliegie, fichi. Poi tornare a dormire e sentire una bella musica. Cenci ride, Antonelli ride, e anche i miei compagni ridono. Eppure lo voglio fare se ci ritorno, dice Cenci. E poi, aggiunge, un mese di mare alla spiaggia. Sulla sabbia, tutto nudo, solo con il sole che brucia. Intanto camminiamo e Cenci vede il mare verde e io un letto vero. Ma Moscioni è serio. È il più consapevole tra noi. Ai piedi nella neve vede steppa, alpini, muli, neve. Laggiù si vede un lume. Non è il mare verde, non è il letto vero, è solo un villaggio. Ma quel lume è come quello della favola. Anzi, è più lontano, non ci si arriva mai. Il villaggio è piccolo, non c'è posto per tutti. Siamo tra i primi, ma le isbe sono già tutte occupate. Dovremmo forse passare il resto della notte all'aperto. Il capitano, Cenci, Moscioni e una metà della già ridotta compagnia vanno in cerca di un alloggio. Io rimango con il resto degli uomini e il mio plotone. Il mattino dopo il capitano mi disse che aveva mandato un portaordini. Da loro c'era posto per tutti, ma io non vidi arrivare nessun portaordini quella notte. Parte dei miei compagni si sistemarono attorno a un pagliaio coprendosi poi di paglia. Altri andarono non so dove e io rimasi solo con Bodei davanti a un fuoco. D'un tratto si sentì belare e Bodei si alzò, andò a prendere la pecora che aveva belato e l'uccise vicino al fuoco. Io l'aiutai a scuoiarla e sul fuoco vivo mettemmo ad arrostire una coscia della pecora per ciascuno. La carne calda e sanguinolenta era incredibilmente buona e dopo le cosce abbrustolimmo il cuore, il fegato, i rognoni infilati alla bacchetta del fucile. Attorno al fuoco si abbrustoliva la carne della pecora e l'odore del fumo era grasso e buono. Mangiammo le bracciole e passavano le ore, poi il collo e le gambe anteriori. Vennero da noi, forse attratti dall'odore, due fanti italiani e un tedesco. Finirono di mangiare la pecora, anzi spolparono le ossa che Bodei e io avevamo lasciato. Erano senza armi e al posto delle scarpe avevano stracci e paglia legati attorno ai piedi con filo di ferro. Facemmo loro un po' di posto vicino al fuoco e se ne stettero lì, silenziosi. Non si alzavano nemmeno per andare in cerca di legna e Bodei brontolava. Nemmeno il fumo scansavano con la testa. Io avevo un gran sonno. Mi addormentai, ma incominciava l'alba e di lì a poco mi svegliarono i rumori che sempre precedevano la partenza della colonna. Raduno i miei compagni di plotone. Si va. Ma la colonna, invece di proseguire, ritorna sulla pista di ieri. Che succede? Vediamo giù a destra un paese abbastanza grosso. Dicono che vi sono i russi e che bisogna conquistarlo per lasciare la strada aperta agli altri dei nostri che seguiranno. Avanti il vestone! Gridano in testa e ci fanno passare. Ora sono pronti a farci passare. Ci viene comunicato da che parte attaccare e andiamo ancora una volta. Il plotone di Cenci e Moscioni a destra, io al centro e un po' arretrato con la pesante, poi le altre compagnie del battaglione, infine i tedeschi. Da un fosso vengono fuori dei soldati russi con le mani alzate. I nostri li disarmano. Si sente qualche sparo qua e là, ma fiacco. Il maggiore Bracchi ci segue e ogni tanto ci grida degli ordini. Vediamo altri soldati russi che se ne vanno. Non sembra una vera battaglia. La pesante non spara nemmeno un colpo. Noi siamo più in alto e vediamo tutto. Raggiungiamo le prime isbe e aggiriamo il paese. Troviamo un branco di oche che strepitano. Ne acciuffiamo alcune e tiriamo loro il collo e ce le portiamo in spalla tenendole per la testa. È stata per le oche la battaglia. Dal centro del paese, dove c'è la chiesa, gridano adunata. È già finito tutto. Andando in direzione della chiesa, vediamo dei camion abbandonati di marca americana. Vi sono anche dei cannoni piazzati con le munizioni accanto. Strano che i russi abbiano tanta artiglieria in un piccolo paese. Ma perché non hanno sparato? Era un caposaldo ben munito. Stanotte la colonna è passata sull'orlo della mugila che sovrasta il paese. È stato là che io mi sono addormentato sulla neve. Non ci hanno sentiti. Eravamo veramente ombre. E mi ricordai di aver visto qualche chiarore nelle vicinanze e che mi ero detto: perché non andiamo lì? Pensando a queste cose, vedo ora un'isba con la porta aperta e dentro. Non mi accorgo che entrando ho scavalcato un morto, un russo messo di traverso sulla soglia. Nell'isba mi guardo attorno per cercare qualcosa da mangiare. C'è già qualcun altro che mi ha preceduto. Vedo cassetti aperti, biancheria, merletti sparsi sul pavimento, cassapanche aperte. Frugo in un cassetto, ma poi in un angolo vedo delle donne e dei ragazzi che piangono. Piangono singhiozzando forte, con la testa fra le mani, le spalle che sussultano. Allora mi accorgo dell'uomo morto sulla porta e vedo che lì vicino il pavimento è tutto rosso di sangue. Non so dire quello che ho provato. Vergogna o disprezzo per me, dolore per loro o per me. Mi precipitai fuori come se fossi il colpevole. Via di nuovo adunata. Stavolta è davanti alla chiesa. Si vedono abbandonati dei camion italiani carichi di sacchi di patate secche, tagliate a fette, e mi riempio le tasche di queste. Sulla neve vi sono pure due botti di vino. Una è sfondata con dentro il vino gelato tutto a scaglie rosse. Mi riempio la gavetta di scaglie rosse e me ne metto qualcuna in bocca. Un ufficiale dice: state attenti, potrebbe essere avvelenato. Ma non era affatto avvelenato. I tedeschi si prendono tutti i prigionieri russi che abbiamo fatto, si allontanano e poi sentiamo numerose raffiche e qualche colpo. Nevica. Si riprende a camminare. I reparti si confondono fra loro. Si alza un forte vento, freddo. Siamo tutti bianchi. Il vento sibila tra l'erba secca, la neve punge il viso. Ci attacchiamo l'uno all'altro. I muli degli artiglieri sprofondano sino alla pancia, ragliano e non vogliono andare avanti, bestemmie, richiami, urli nella tormenta. Un'altra notte in un altro villaggio. Non sono isbe quelle laggiù, vicino a quegli alberi? Cammino solo in quella direzione. Sprofondo nella neve sino al petto e avanzo come se nuotassi, sognando un'isba. Raggiungo il punto dove credevo che fossero le isbe e non trovo che ombre. Ombre di che cosa? Torno indietro, ma poi di nuovo ho l'impressione di vedere delle isbe e vado da quella parte fino alla riva di un fiume. Anche qui però non c'è niente. Ci sono solo 3 betulle cariche di ghiaccioli che tendono i rami irsuti di ghiaccio al cielo carico di stelle. Piango in riva al fiume gelato. Dove sono i miei compagni? Avrò la forza di ritornare da loro. Li ritrovo in un edificio di mattoni. Il paese non era che a poche centinaia di metri e io avevo camminato nella direzione opposta. Fa freddo e quel po' di fuoco che abbiamo acceso manda più fumo che altro. La stanza è occupata in gran parte da un mucchio di grano. Ci sdraiamo sul grano, tutti sporchi di neve, con le coperte gelate. Sono innumerevoli giorni che non mi tolgo le scarpe e ora me le tolgo per farne sciogliere il ghiaccio e asciugarle. Subito i piedi mi si gonfiano. Le calze non le levo per paura di vedermi i piedi bluastri con la pelle che si stacca. Mi addormento. Un bagliore improvviso e scoppi di bombe a mano ci svegliano di soprassalto. Ci siamo, penso. Non sono capace di mettermi le scarpe che trovo dure come il legno. Afferro il moschetto e prendo le bombe a mano. Chi urla, chi piange. Uno rompe i vetri della finestra e salta giù scalzo nella neve della strada. Striscio via sul mucchio del grano ad appostarmi dietro la finestra. C'è un grande incendio. Il paese ne è tutto illuminato. Vedo gente correre tra le fiamme, altri che ne escono e si buttano fra la neve. Entra da noi il tenente Pendoli. Non è un attacco, grida. Non sono i partigiani. I fuochi accesi dai soldati per scaldarsi hanno provocato l'incendio della chiesa e le munizioni che erano nella chiesa stanno scoppiando. La spiegazione riporta la calma e ritorniamo a sdraiarci sul grano. Attraverso la finestra, senza più vetri, entra un terribile freddo e si vede la neve tutta rossa, come inzuppata di sangue. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.